Ogni sera Emanuela si diceva non salgo perché temeva di ridiscendere sola fino alla sua camera nella completa oscurità dei corridoi e della scala. Mai aveva avuto il coraggio di chiedere la candela. Le altre vagavano sicure nel buio come sonnambule, conoscevano gli angoli, gli spigoli dei mobili, li evitavano per abitudine. Sapevano il numero dei gradini che dividevano un piano dall'altro, facevano le scale a occhi chiusi, 1, 2, 3, 4, 5. Ogni sera Emanuela si proponeva di restare e invece, quando era l'ora, saliva nella camera dove le sette amiche si riunivano, una sera qui, una là, tutte camere uguali, diverse soltanto nell'odore. Ognuna aveva un suo proprio odore. Dapprima parlavano, più tardi si mettevano a studiare. Vinca di nascosto fumava le sigarette, ormai anche Emanuela ogni sera studiava. Ma uscendo, dopo aver detto con voce tranquilla buonanotte, appena richiusa la porta, si trovava sprofondata in un buio compatto, buio e silenzio. Il sangue le scottava nelle vene, le dava un gran caldo umido fin sul collo. Un'ondata negli orecchi, il martellare fitto sulle tempie, cominciava a camminare soltanto perché temeva che le compagne, riaprendo la porta, la trovassero ancora lì, imbalordita dallo spavento. Camminava leggermente perché il suo passo non levasse eco tra le alte pareti. Corridoio a destra, corridoio a sinistra. E se mi apparisse un morto? Oh, ecco la scala. Uno, due, tre, quattro, cinque. E se sentissi adesso una terribile mano sulla spalla? Oh, ecco il pianerottolo. Avanti il piede con precauzione. Ecco la nuova rampa. Uno, due, tre, quattro. E se svoltando nel corridoio del mio piano trovo uno scheletro in piedi? Tendeva la mano avanti a sé per essere certa che nulla avanzasse verso di lei, l'insidiasse. E poi veniva colta dal timore che la sua mano incontrasse un corpo viscido, freddo, e subito la ritraeva. Restava ferma, ancora inchiodata dallo spavento, occhi spalancati nella tenebra, senza misericordia. Sentiva un urlo di orrore salirle non dalla gola, ma da tutta la carne e la gola serrarsi, inaridirsi, soffocandola. Il cuore pareva scoppiarle in petto come una melagrana. Per darsi aiuto cercava di convincersi della sua perfetta innocenza. Non ho fatto niente di male, niente di male. Poi d'un tratto pensava alla bugia e sussultava. Certo, avanti alla mia porta trovo uno spirito. La bugia, quella terribile bugia. Bisognerebbe parlare alle ragazze, dire: non sono quella che credete. Tutte bugie, falsità. Non mi date più fiducia. Sapete chi sono io, di dove vengo. Sapete di Stefano, la storia di Stefano. Tutte bugie, vi ho detto. Faccio parte del vostro gruppo. Giuramento sul tavolo come i moschettieri. 8 per 1, 1 per 8. E adesso io so tutto di loro. E con le altre sono così segrete e schive. E loro di me sanno tutte bugie. Ieri la mia festa, in camera un gran mazzo di fiori. Stavano nascoste dietro la porta, spiando la mia sorpresa. Poi sono entrate rumorosamente, mi hanno baciata. Mi vogliono bene, ma a chi vogliono bene? E quale sono io veramente? Però non ho fatto nulla di male, nulla di male. E seguitava a camminare più serena. Prima di imboccare l'ultimo corridoio, sempre le pareva di udire un passo e uno scricchiolio. È qui il morto, mi aspetta, mi salta addosso. Dio, è la bugia, è la bugia! Appiattita contro il muro, non aveva il coraggio di proseguire fino alla porta della sua stanza. Certo, lì trovo il fantasma, lì lo trovo e mi prende alle spalle, mi afferra, mi strozza! Soltanto dopo aver rinchiuso la porta della camera dietro di lei, accesa la luce, i suoi nervi incominciavano a distendersi. La camicia spiegata sul letto, la cartella aperta sul tavolino, i libri, le fotografie, la fronte ancora madida di sudore. Che sciocca, pensava. Ecco, sono in camera mia, non esistono gli spiriti. Oltre la parete, Milly dorme. Ieri, però, non aveva avuto il coraggio di entrare nella sua camera. Le era tornato in mente un racconto di Silvia. Al paese, una mia amica appena sposa è morta di parto a 20 anni. Abitava di contro alla nostra casa. I suoi urli riempivano la strada. Io, dopo aver sbarrato le finestre, mi ero messa a letto, la testa sotto le coperte per non sentirli, ma quelli, sai, nel silenzio era notte, Arrivavano lo stesso fino a me. Infine tacque e al mattino si seppe che era morta. Dopo questo discorso, ieri sera, Emanuela era sicura di trovarlo, un morto bianco in camera sua, quella sposa magari, stesa sul letto in una pozza di sangue. E allora, scorto un filo di luce sotto la porta di Milly, si era rifugiata da lei, entrando di corsa, come inseguita. Milly studiava musica. Malata di cuore, studiava stando seduta in poltrona. Spesso non scendeva a tavola. Non sta bene, Milly? E la suora scuoteva la testa. Talvolta, quando si sentiva in forze, Milly andava nella cappella per suonarvi l'armonium. La casa era vuota. Le ragazze tutte fuori, chi all'università, chi in biblioteca. Emanuela spesso rimaneva in casa, a scrivere lettere o senza far nulla, buttata sul letto a pensare. Dalla finestra si scopriva l'alto muro del cortile, tutto ricoperto di viti di America, rossa, perché si era d'autunno. Un giorno, gonfie e lente, salirono dal cortile le note dell'armonium. Non era musica sacra. Lieder erano canzoni di Schumann, che però uscivano da quello strumento con una voce mistica. Stupita, Emanuela si affacciò. Erano aperte, infatti, le due finestre della sacrestia. Scese nella cappella. Nessuno. Ma a quelle note la cappella sembrava gonfiarsi, contorcersi. Nella penombra si vedevano solo le sagome scure delle panche. Una lampada rossa scintillava qualche lucentezza di ori sull'altare. Emanuela si arrischiò dietro l'altare. Era Milly che suonava. Ne riconobbe da dietro le lunghissime trecce biondo pallido. L'aveva vista nei corridoi, a tavola qualche volta, ma non le aveva mai rivolto la parola. Non sembrava una ragazza vera. Pareva che a toccarla dovesse disfarsi, svanire. Quando non si sentì più sola, Milly si volse di scatto, sgomenta. Continua, Emanuela disse, è così bello. Ma l'altra, rossa in viso, vergognosa di essere stata sorpresa in tanta intimità, sei quella del 28, vero? Le chiese. Sì. Ieri sera, disse perché Emanuela fosse colta sul vivo, ieri sera ti ho sentita piangere. Quindi, facendole segno di accostarsi, si girò di nuovo sullo sgabello e riprese a suonare. E da quel momento furono amiche. Emanuela, svegliandosi, bussava alla parete e l'altra, che già da tempo alzata, studiava al tavolo, si levava, correva a bussare anche lei, rispondendole. Milly, che era sempre rimasta appartata, cercava la compagnia di Emanuela. La guardava e guardandola si illuminava, forse perché era tanto diversa da lei, così vitale. Senza che l'altra le chiedesse nulla, Milly le raccontava di sé, della ragione per la quale era partita da Milano, studiava così lontana da casa sua. Sai, diceva, io a Milano mi ero innamorata del suono dell'organo e udivo a San Babila la funzione del vespro. Una sera mi alzai dalla panca come per andare a confessarmi e invece lesta, presi una scaletta di legno e mi trovai sul palco dell'organo. Hai mai vista una chiesa dal palco dell'organo? È strano, sembra di essere già in paradiso. Da così vicino le note dell'organo gonfiano gli orecchi, stordiscono. Sotto la gente a gran voce cantava, una folla in ginocchio a capochino. Allora io guardai l'organista. Era grigio, tutto grigio, e portava le lenti nere. Era cieco. Ma ormai non potevo più tornare indietro. Giovane o vecchio, ero innamorata di lui. Tu avessi visto che mani aveva. E da allora ogni sera salivo lassù. Parlavamo di musica, per lo più. Lui amava Bach e Haydn. Poi la gente usciva e le luci si spegnevano. Egli per scendere appoggiava la mano alla mia spalla. Hai mai dato la spalla a un cieco? Allora soltanto si apprezza il valore dei propri occhi. Guardava nel vuoto e anche i suoi occhi chiarissimi parevano occhi da cieco. Sempre fissando davanti a sé, riprese, come se sognasse, un mattino a maggio andammo ai Giardini Reali. Tu conosci Milano, i giardini? Oh, devi andarci. Nel mezzo di un laghetto c'è un piccolo tempio dedicato a Eros e immensi alberi dintorno. Romantico, 800. Dicono che Foscolo vi andasse a passeggiare. Lui non vedeva nulla, ma io gli spiegavo, gli dicevo: ecco, adesso il laghetto si è fatto tutto rosa. Quando papà si è accorto di questo, in 24 ore mi ha fatto partire per venire a studiare a Roma, dove il clima mi fa bene alla salute. Ma io sono felice qui. Posso suonare l'armonium e scrivo a lui con quell'apparecchio là, tutto buchi, l'alfabeto Braille, fatto apposta per ciechi. Ho imparato, scrivo bene e lui legge passandovi sopra le mani, così, vedi, così. E sfiorava intanto leggermente le dita di Manuela. Quella sera Milly studiava nella poltrona, quando vide entrare Manuela ansante, richiudere la porta, appoggiarvisi sfinita. Non si alzò, ma la guardò con apprensione. Che c'è? Le chiese. Ho paura di sera per questi corridoi. Temevo che nella mia camera vi fosse una morta ad attendermi e non ho avuto il coraggio di entrare. È ridicolo, vero? Scusami, sono sconvolta. Poi, cercando di pensare ad altro, si inginocchiò sul tappeto dinanzi a Milly. Guardò il libro aperto che la ragazza teneva in mano. Che cosa studi? Armonia. Senti, Emanuela, fa meno di salire su domani sera. No, non posso, la ragazza rispose. Aveva appoggiato la testa sulle ginocchia di Milly e si lasciava accarezzare la fronte, gli orecchi, i capelli, rasserenandosi. Nella sua camera si sentiva riafferrare dai ricordi, dalle responsabilità. C'erano le lettere chiuse a chiave nei cassetti, le fotografie, i vestiti che sempre ci ricordano un'epoca precisa. Erano le compagne a darle la certezza di questa sua nuova personalità che indossava al mattino come un abito e vicino a loro si sentiva vivere, personaggio nuovo, innocente, Emanuela di tanto tempo fa. Non posso farne a meno, ripeteva. E però il buio mi sgomenta e mi sento chiusa, imprigionata, non so spiegarti, non ne posso più. Ti capisco, approvò Milly. È così per tutti al principio, manca l'aria. Per me forse è stato meno duro, ero abituata a vivere impaurita, in soggezione. Tu non conosci mio padre, sarebbe lungo a spiegarti. Io respiro più liberamente qua dentro, anche rinchiusa. Ma tu non devi rimanere tanto tempo sola in camera. Esci, va con le compagne all'università. Oppure va a spasso, c'è la villa qui accanto. Non ti piace la villa? Le toccava le mani, le affilava le dita, le accarezzava le unghie. Se potessi ti accompagnerei, ma io sto male. Dovresti uscire con Xenia o con Vinca. Anzi, proprio con Vinca, che prende tutto così facilmente. Lei è rimasta solo qualche giorno sconcertata. Arrivando qua dentro, si è ripresa subito, vedi? Se invece di venire da me fossi entrata in camera di Vinca, neppure ti saresti messa a piangere. Ma Emanuela scuoteva la testa e ripeteva: non ne posso più, non ne posso più. Nessuno avrebbe potuto sollevarla, né Xenia né Vinca. Quando di sera Vinca parlava al telefono, la suora passeggiava impaziente in su e in giù davanti a lei, facendo ciondolare la chiave della stanza, per farle intendere che bisognava far presto, si doveva richiudere. Ma la ragazza, per dispetto, si sedeva graziosamente, assestandosi la gonna sui ginocchi, appoggiando la testa al muro e discorreva senza fretta, sorridendo. Parlava in spagnolo, gettando a ogni frase un fiotto di parole nel microfono. Intanto fissava la suora con occhio indifferente, senza darle importanza, sicura dietro il suo idioma straniero. Qualche parola soltanto si capiva ed era peggio. La suora intuiva la conversazione e si irritava. Le compagne in cinque, sei, stipate su due sedie, parlottavano tra di loro nel vedere il viso arguto di Vinca, la quale, quando aveva visto la suora giungere al colmo dell'esasperazione, prendeva il tono del commiato. S'alzava e finalmente diceva in italiano con il suo buffo accento: addio! Riappeso il ricevitore, aggiungeva con voce compunta: Suor Lorenza, io la ringrazio! E usciva, seguita dalle altre. Salendo alle camere, per le scale, le amiche le chiedevano: che dicevi? Che dicevi? Sì, che dicevi quando ti sei messa a ridere? Quando lo vedi? Eh? Quando lo vedi? Domani nel pomeriggio. Il domani. Fino all'ora dell'appuntamento faceva toletta, si strappava i sopraccigli, entrava nelle stanze delle compagne in pantofole, una vecchia vestaglia addosso, spettinata, le pinzette in una mano, lo specchio nell'altra. Mentre mentre parlava ogni poco, storcendo la bocca, stirando la fronte, zac, si strappava un pelo dei sopraccigli e riprendeva a discorrere, facendosi il massaggio col polpastrello. Non era bella, ma aveva capelli bruni, abboccolati, lucidissimi, e occhi neri, umidi. La bocca sgraziata, i denti piccoli e aguzzi come quelli dei topi. Quando usciva nel pomeriggio, appena fuori del portone, dopo aver spiato di qua e di là, in fretta si dipingeva le labbra, si ravvivava l'incarnato delle gote. Luis l'aspettava lì presso, la salutava appena, la prendeva per il braccio e camminavano. Subito Vinca ritrovava il piacere fisico di parlare la sua lingua. Liberata, discorreva avidamente, come si mangia un dolce che piace. A certe espressioni dialettali di Luis rideva, quasi le udisse per la prima volta. Erano andalusi entrambi di Cordova. Si erano conosciuti qui dove stavano per studiare. Luis studiava architettura e spesso finivano a parlare del loro paese, così si confortavano di esserne lontani. Hai capito allora dov'è che abito io? Gli chiedeva Vinca. C'è quella fontanella in mezzo alla piazza. Carina quella fontana, vero Luis? Gli si faceva più vicina e la sera era piena di quell'acqua che scorreva nella fontanella di Cordova. E a marzo poi, seguitava Vinca, si va a cogliere la ginestra, bracciate così come grano. Ho l'impressione, diceva Luis, che perfino il colore della nostra terra sia diverso, più rosso, ribollente, ulivo e frumento, distese all'infinito di pane e olio. È strano, osservava, la natura è la prima cosa che io sento avversa quando sono all'estero. Eppure una foglia di qui dovrebbe essere simile a una foglia delle nostre. Già, con gli uomini sembra più facile, vero? Sembra però, perché in realtà basta un nulla per ricordarti che sei straniero. I malinconiti si prendevano sotto braccio, si stringevano, ognuno aveva nella mente una casa diversa, un diverso patio, ma come se l'altro potesse vederlo. Era comunque un'altra casa spagnola. Certe volte Luis proponeva: andiamo al cinematografo. E deciso, s'avviava verso un cinema di quartiere che nel pomeriggio era poco frequentato. Vinca lo seguiva, ma era contrariata. Le sembrava che tutti dovessero sapere. La cassiera, per esempio, la quale, strappando i biglietti, la sbirciava, che loro andavano là dentro per sbaciucchiarsi. Si sedevano, guardavano attenti il film, ma dopo un po' Luis immancabilmente diceva: è stupido. E s'assestava sulla sedia, passando un braccio intorno alle spalle della ragazza. Negli intervalli si scostavano esageratamente. Lei, tutta la bocca sbavata di rossetto, si specchiava, si passava la cipria. Uscendo Vinca, stordita, pensava: non ci vengo più. E neppure cercava il braccio di Luis. Camminavano discosti, quasi fossero estranei. Poi lui accendeva una sigaretta. Le mostrava il pacchetto, le diceva: spagnole, me le ha portate un amico. E lei lo pregava: me ne dai una, la fumo in camera mia stasera. E suor Prudenzina? A che mi importa di suor Prudenzina? Erano già accese le luci delle vetrine e loro talvolta si fermavano osservando le esposizioni senza neppure scambiarsi le loro impressioni. Certe volte a bruciapelo lui si esclamava: chissà quando torneremo in Spagna. Io, se seguito a studiare così, vi tornerò a 50 anni. A 50 anni la bella m'ha lasciato, canticchiava lui tra i denti. Era una canzone delle Sierre, tanto tempo che non la udivano. Vinca gli diceva: continua, mi piace. E quando finiva: conosci anche sul ramo del ciliegio c'è un fiore? Chiacchierando, giungevano presso la porta del collegio. Lì si arrestavano. La grande piazza aveva angoli d'ombra, ma i due giovani non riuscivano a isolarsi. Le macchine andavano silenziose, se le trovavano accanto. Gente da dentro li osservava. Loro erano fermi, dinanzi a un negozio di statue, deserto come un museo. Vinca aspettava che qualcosa l'acquietasse, una parola di lui, uno sguardo. Ma egli fissava gli alberi che s'affacciavano al muraglione della villa, sopra la nicchia settecentesca che stava al gomito della strada. Pareva distante col pensiero, finché lei stessa gli chiedeva: quando ci vediamo? Sperando che egli le promettesse domani. Ma la risposta di lui era invariabile: te lo dirò al telefono. Vinca rispondeva: va bene, intimamente malcontenta. Restava a guardarlo mentre si allontanava, le mani in tasca, fumando. Valeva la pena di far così tardi per lui. E sentiva contro Luis rabbiosa irritazione. Avrebbe voluto richiamarlo, dirgli: «Basta, che ti credi?» E invece continuava a seguirlo con lo sguardo e suonava il campanello soltanto dopo che lui era scomparso dietro l'angolo della piazza.